Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Il nuovo pacchetto sicurezza varato dal governo italiano prevede anche la schedatura dei senza tetto. Non un vero e proprio censimento, ma un inserimento volontario di dati che saranno accessibili solo dal Ministero e che potrebbero garantire ai clochard una serie di servizi di base. Chissà che faccia farebbe Modesta Valenti, la donna morta nel 1983 alla stazione Termini di Roma senza essere nemmeno soccorsa perché aveva i pidocchi, se oggi le dicessero che deve presentarsi in comune per chiedere la residenza. Forse, nonostante l'obbligo ribadito dal pacchetto sicurezza, resterebbe sulla sua panchina e nessuno potrebbe farci niente. Perché il decreto del Ministero dell'Interno, che detta le istruzioni sul funzionamento del Registro Nazionale dei Senza Fissa Dimora, non prevede nessuna schedatura forzata. I clochard diligenti, che andranno in comune a chiedere la residenza, saranno inseriti nella lista, a cui però può accedere solo il Ministero. Il registro non conterrà nemmeno l'indirizzo fittizio, come quello assegnato ai senza tetto romani, via Modesta Valenti appunto, ma solo il comune. Le amministrazioni, chiamate ad aggiornarlo, continueranno a muoversi in ordine sparso sulle residenze da assegnare e sui metodi di accertamento del domicilio. Ma forse quella che sembrava una marchiatura a fuoco potrebbe trasformarsi in un'occasione di inclusione sociale e di accesso ai servizi di base. Tanto rumore per nulla. E mentre le associazioni tirano un sospiro di sollievo, i comuni si preparano a riportare nel Registro Nazionale dei Senza Fissa Dimora tutti i clochard finora schedati negli elenchi territoriali. La volontarietà è un criterio fondamentale, spiega Davide Boldrini, vicepresidente della FIOPSD, la Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora. La temuta schedatura annunciata dal pacchetto sicurezza del 2009 si potrebbe trasformare in un'occasione di inclusione sociale. Rimane il problema della residenza fittizia, che non tutti i comuni assegnano, e dell'accertamento del domicilio. Su questi due fronti, ogni comune fa un po' come gli pare. La lista tanto temuta non ci sarà dunque. E il registro contenente le iscrizioni, in teoria obbligatorie e di fatto volontarie, sarà accessibile esclusivamente dal Ministero, scongiurando così anche il rischio di violazione della privacy. Quello che ancora serve, spiega Paolo Pezzana, è una circolare che imponga ai comuni di uniformarsi sulle residenze fittizie e sulle modalità di accertamento del domicilio. Ai senza tetto, il messo comunale non può lasciare un avviso e ritornare a verificare, e questo rende spesso difficile l'accesso alla residenza e ai relativi benefici. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Francesca Milano, indirizzo quasi obbligatorio per tutti i scarp del tennis, dal Sole 24 Ore del 20 luglio. Per molte persone adulte, ma soprattutto per i bambini, le iniezioni rappresentano da sempre un incubo. Ora però, in sostituzione dell'odiata puntura, arriva un cerotto che permetterà di vaccinarsi in modo indolore. Da una puntura a una carezza il salto è grande. Per questo i ricercatori hanno annunciato con tanto entusiasmo il primo cerotto per somministrare il vaccino contro l'influenza. A differenza dei cerotti transdermici, già usati per i medicinali contraccettivi, contro il vizio del fumo o per il cuore, il nuovo sistema non è del tutto privo di aghi. Ma anziché usarne uno lungo diversi centimetri, ne sfrutta 100 che superano di poco il mezzo millimetro. Largo come una moneta, il cerotto va premuto leggermente sulla pelle e in pochi minuti rilascia il vaccino. Poi, grazie all'uso di un materiale plastico biodegradabile, gli aghi si dissolvono al contatto con i fluidi della cute. Il cerotto diventa liscio al 90% dopo 5 minuti. A quel punto può essere staccato e buttato via, senza rischi di infezioni come per le siringhe tradizionali. A raccontare la prima sperimentazione del vaccino gentile è la rivista Nature Medicine, che ha testato il presidio indolore sulla schiena di un gruppo di topolini. Abbiamo dimostrato che un centinaio di microaghi biodegradabili riescono a vaccinare contro l'influenza come, probabilmente anche meglio, di un tradizionale ago intramuscolo. Spiega soddisfatto Mark Prausnitz, uno degli autori dello studio, professore della Georgia University e del Georgia Institute of Technology. Il fatto che il vaccino sia liofilizzato lo rende utilizzabile anche a temperatura ambiente e senza preparazioni particolari. Ci aspettiamo un futuro in cui le persone ricevano il cerotto per posta o l'acquistino in farmacia e se lo somministrino da soli a casa. Immagina Sean Sullivan del Georgia Tech, un vero e proprio salvatore per tutti coloro che soffrono di tripanofobia o fobia delle iniezioni. Gli aghi descritti su Nature Medicine sono lunghi 0,65 mm e penetrano nella pelle per circa 0,2 mm. Rilasciano il virus dell'influenza inattivato nella zona esterna della cute. La pelle è un organo particolarmente adatto alla vaccinazione, spiega Richard Compans della Emory, un altro degli sperimentatori, perché contiene molte delle cellule responsabili della risposta immunitaria. I topolini vaccinati con il metodo del cerotto sono stati infettati dopo circa un mese con il virus dell'influenza, ma se la sono cavata senza gravi sintomi, segno che la somministrazione del farmaco ha funzionato. La trafila delle sperimentazioni sull'uomo richiederà i soliti 2 o 3 anni, il lasso di tempo standard per mettere a punto ogni nuovo farmaco o presidio farmaceutico. Ma le considerazioni sulla salute andranno aggiunte a quelle di tipo economico. Produrre una normale siringa usa e getta oggi costa pochi euro. Il nuovo cerotto sfrutta invece materiali plastici biodegradabili e tecniche per la manipolazione degli aghi nelle dimensioni di pochi micron. I ricercatori della Georgia promettono campagne di vaccinazione su larga scala in caso di pandemie e immunizzazioni rapide ed economiche nei paesi poveri. Ma è assai più probabile che il nuovo cerotto resti molto costoso rispetto alla siringa normale. La carezza, in quel caso, sarà riservata a chi può permetterselo e a tutti gli altri rimarrà la puntura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi «Basta punture, arriva il cerotto». Il vaccino gentile è indolore, da Repubblica del 20 luglio. Il caldo estivo a volte diventa occasione per offrire spettacoli poco edificanti, come quella di uomini, spesso non più giovanissimi, che girano per le città in bermuda e mutandoni. Molti anni fa, da bambina in Scozia, fui molto contenta di incontrare un signore in kilt. Ero con mia madre che, dopo rapida occhiata, promosse il kiltista e andò dritta al cuore del problema. No, non si chiese se portava o no mutande. La mia mamma non fa quel tipo di battute, che diamine. Sentenziò: «Sta bene, per girare senza pantaloni lunghi ci vogliono i polpacci giusti». Amen. Aveva ragione. Non aveva fatto i conti col riscaldamento globale e con l'altrettanto globale intamarrimento, sul lungo termine però. Così in questi giorni, con 40 gradi percepiti fissi e i calzoncini sdoganati anche in città, le donne eterosessuali sono afflitte dalla visione continua di uomini con brutte gambe. Quest'estate va peggio che mai, e non solo causa clima. Se negli anni scorsi avevamo assistito impotenti al dilagare dei bermuda nelle metropoli, quest'anno ci tocca la moda della mutanda tattica a mezza coscia. Neanche quella, nella maggior parte dei casi, è un bello spettacolo. Specie se indossata da signori di mezza età, insomma, da coetanei. Sarà pure una conquista di pari opportunità. Si sa, i maschi d'estate sono svantaggiati, al lavoro devono mettersi giacca e camicia, eccetera, eccetera, eccetera. Però in Italia non è controbilanciata da equivalenti progressi femminili. Anzi, le femmine, con gli anni che passano, anche se hanno gambe carine, regalano le loro mini alle figlie, portano gonne più lunghe, casomai si danno agli spacchi. Così la sera molte coppie civili e simpatiche fanno ridere. Lei, in abito lungo, magari un po' trasparente ma finalizzato a coprire il ginocchio che con l'età non migliora, incede serena con accanto un tizio che sembra il figlio adolescente precocemente rugoso. E ovviamente il marito, in calzoncini uguali a quelli che metteva a 9 anni al mare per giocare a tana liberi tutti. Non lo si può troppo biasimare, si diceva, a causa caldo. Però, essendo costretta a guardargli le gambe, lo si può criticare. Come fa lui con le donne, probabilmente, dai tempi in cui giocava a tana. Oddio, le donne non sono così anatomicamente perfide in genere. Forse dovrebbero diventarlo, non per cattiveria o per far coprire gli uomini, per fargli capire come ci si sente a venire squadrate, valutate un tanto al pezzo e un tanto al chilo e magari bocciate. Magari potrebbe finire in ridere. Magari sarebbe un bel momento di pari opportunità e ce n'è bisogno da noi in ogni stagione. Avete Avete ascoltato la lettura della rubrica di Maria Laura Rodotà, Tipi d'estate, dal Corriere della Sera del 20 luglio. Avere la possibilità di partorire negli Stati Uniti rappresenta un investimento per i cinesi, che sono disposti a spendere anche grosse cifre pur di avere un figlio americano. C'è un paese dove il mito americano resiste nonostante tutto. La crisi finanziaria, le difficoltà economiche e politiche che hanno messo a dura prova il fascino e le prospettive di una vita negli Stati Uniti non valgono nella Repubblica Popolare. In Cina si moltiplicano anzi le agenzie specializzate nell'organizzare trasferte tutto compreso per le donne incinte che vogliono andare a partorire in America. È tutto legale, come nota il Washington Post in una recente inchiesta. Si tratta di regolari viaggi con tanto di visto, in genere turistico. A destinazione, le future mamme trovano un'organizzazione in grado di fornire quanto serve per gli ultimi 2 mesi di gravidanza e i 30 giorni successivi al parto, personale medico e non che parla cinese, alloggio, 3 pasti al giorno. L'impegno finanziario per le coppie è notevole, circa $1,500 per la permanenza, più i biglietti aerei e le parcelle. Ma è un investimento che in Cina è visto con grande comprensione. Il nascituro, per la legge americana, avrà diritto alla cittadinanza e quindi al passaporto. Perché affrontare queste spese considerato che l'unico erede un giorno emigrerà lontano dai genitori? La Cina sarà pure un paese in grande espansione economica, 10,3% nel secondo trimestre dell'anno, con una classe media sempre più vasta e un tenore di vita che comincia a sfiorare, almeno nelle città più ricche, gli invidiati standard occidentali. Ma al di là delle pure prospettive materiali, per ora migliori in Cina che negli Stati Uniti, quello che spinge molte coppie cinesi a intraprendere un non facile viaggio della speranza è la convinzione che il loro bambino potrà misurarsi con una società più giusta di quella originaria. L'idea di America che persiste in Cina è quella di un paese dove chi merita, chi studia o lavora senza risparmio viene ripagato in proporzione. Un paese senza tante autostrade privilegiate riservate a chi ha migliori guanci, cioè relazioni. Scorciatoie riservate a pochi che ottengono tanto senza troppa fatica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Salom, Fare un figlio americano, il nuovo investimento cinese, dal Corriere della Sera del 21 luglio.